Luigi Amedeo di Savoia, duca degli Abruzzi, era figlio di Amedeo, duca d'Aosta, e nipote di Vittorio Emanuele II, duca di Savoia, re di Sardegna e dal 1861 re d'Italia. Pesate ben bene le probabilità di diventare re, probabilità in vero minime, questo duca degli Abruzzi ha cercato, diciamo, altre strade per riempirsi l'esistenza lasciando al contempo tracce di sé. Tutte strade impervie, difficilissime a percorrersi, lontanissime. Nel 1897 è in Alaska a scalarsi i 5.500 metri del Sant'Elia. Poi esplora Ruvenzori in Africa, tenta perfino di violare le vette più inviolabili del Karakorum, circumnaviga il globo, partecipa alla guerra italo-turca dell'11 e alla prima guerra mondiale. Nel 1919 fonda un villaggio a proprio nome, Duca degli Abruzzi, lo fonda in Somalia e lì rimane a tutt'oggi, perché muore nel 1933 e lì per sua espressa volontà viene sepolto. L'impresa sua più nota tuttavia fu quella del record nella progressiva conquista del Polo Nord, anche se a onor del vero proprio sua poi non fu. Allora, nel 1896 il norvegese Nansen, Fridtjof Nansen, a costo di inenarrabili sofferenze, è raggiunto a 86 gradi e 14 di latitudine dal polo. Ma il duca degli Abruzzi voleva arrivare per primo almeno qualche metro più in là. Prende la vecchia nave di Nansen, la modifica, la ribattezza Stella Polare, acquista 120 cani siberiani, faranno quasi tutti una brutta fine, ingaggia 20 uomini, fra i quali 11 italiani, nonché l'amico fidato Umberto Cagni. Umberto Cagni era un tenente di vascello, più vecchio di lui di una decina d'anni, già compagno di altre avventure precedenti. Carica cibo per 4 anni e paga di tasca sua il conto complessivo, che ammonta alla bellezza di lire 922.000, che all'epoca erano una piccola fortuna. Parte il 12 giugno del 1899 e si blocca fra i ghiacci l'8 settembre. Fanno base, si preparano a partire poi con slitte e cani. Tuttavia, poco prima al duca capita un incidente. Si perde in un giro di ricognizione fra nebbie e ghiacci, cade nelle acque gelate, si salva, ma gli si congelano due dita che in parte gli devono essere amputate. Addio conquista del polo. Con slitte e cani e con altri coraggiosi, alcuni dei quali destinati a non rivedersi più, parte invece l'amico Cagni. Il 23 aprile dell'anno dopo mesi di lotta per la vita, Cagni raggiunge il punto dove è arrivato Nansen e il giorno dopo, ricorrendo a quel poco di unghie e denti che gli rimanevano, va più in là e pianta una canna di bambù con il tricolore italiano a 86 gradi e 34 di latitudine dal polo. Il ritorno è un film dell'orrore. Con cibo scarso o immangiabile, sopraffatti dalla deriva del pack che li riallontanava sempre più dal campo base, in condizioni fisiche e psichiche estreme, tant'è vero che Cagni si taglia da solo un dito congelato. Penso la mano tua che dolorava cominciando a morire, scrive D'Annunzio nelle canzoni d'oltremare, e allora gli eroi dell'alba del nuovo secolo, o forse meglio gli eroi del tramonto del vecchio, patiscono le pene degli inferi e, stremati, alla fine, il 23 giugno, oltre un anno dopo da quando erano partiti, giungono all'abbraccio con il duca degli Abruzzi, rimasto in trepida attesa con due falangi in meno. Ricongiunti, si rimettono in viaggio per annunciare al mondo intero la loro impresa, ma sulla via del ritorno gli si fa incontro una nave italiana, è una nave messaggera. Qualcuno stava andando a dire al duca degli Abruzzi che a Monza, come diceva Leo Longanesi, con palle tre hanno ucciso il re. Bresci ha ammazzato Umberto. A leggere attentamente settimanali come Oggi, Gente, Novella 3000 e similari, chi svolge oggi le funzioni ideologiche svolte dai rampolli di Famiglia Reale è tutt'altro genere di persone, che portano a compimento peraltro tutt'altro genere di imprese, o meglio, imprese simili più o meno abilmente contraffatte. Una spedizione si metterà in viaggio per il Polo Nord più di un secolo dopo la storica impresa del Duca degli Abruzzi, taglia corto un'inserzione pubblicitaria di questi giorni. Protagonisti della spedizione saranno Mike Bongiorno e il tal nuovo integratore a base di estratti vegetali ad azione antiossidante, nemico giurato dei temibilissimi radicali liberi. Sacrificato alla ragion di stato araldico il povero Cagni e i più poveri che tornati non sono, rimesso al posto d'onore Luigi Amedeo di Savoia, rimessegli quelle falangi che di fatto gli impedirono il compimento dell'impresa, ecco che tutto l'antico carico simbolico viene issato sulle spalle dell'inossidabile Mike Bongiorno, che, esempio di organismo biologico evitato con cura da qualsiasi radicale libero, viene rispedito sul PAC con tutte le garanzie e le telecamere opportune affinché inghiotta le pillole in questione e venga immortalato mentre lo fa. È la seconda volta che gli capita una vicenda del genere, perché in omaggio all'associazione fra alcolici e alpinismo era già stato depositato anni or sono su quel cocuzzo di montagna da cui invitava giusto al contrario a rimpinzarsi di radicali liberi bevendo grappa bocchino. E ora, potendo contare sul fatto che apparentemente non è peggiorato, perché era ben difficile anche che potesse peggiorare, fish nella roulette delle vite fittizie, viene puntato sulla posta maggiore. Dalle Alpi al Polo Nord, a qualche linea di termometro più giù. Tra le rivendicazioni del trafugamento del cadavere di Cuccia, devo ammettere che da un punto di vista strettamente epistemologico ho preferito la prima. Quella presa in scarsa considerazione dagli organi inquirenti, quella in cui, no, un ignoto e sfortunato scommettitore in borsa diceva che non avrebbe restituito la salma fino a che l'indice MIB30 non fosse tornato ad una mitica quota 50.000. L'ho trovata ispirata ad un ottimismo razionalista pre-novecentesco che mi commuove. In quella disperata richiesta c'è una piena fiducia nella capacità di controllo del mercato finanziario, la certezza che una scelta congrega di potenti sappia coordinarsi fino al punto da ottenere un risultato comunemente condiviso. La fede infine in un uomo, il Cuccia per l'appunto, che questa congrega di potenti può rappresentare in toto assumendosene intelligenza e responsabilità morale. Cuccia stesso ne piangerebbe di gioia, non saprebbe reprimersi un moto di riconoscenza e imperitura. Mentre più perplesso, anzi sgomento per dover constatare ancora una volta l'anarchia intrinseca di ogni umana pretesa di coordinazione, più perplesso il Cuccia, come tutti noi, lo sarebbe di fronte alla notizia che dava ad intendere come il suo cadavere potesse anche essere andato a finire in una villa lì vicino, proprio sita nei dintorni di Maine, per la precisione, nella villa di Mike Bongiorno. E ci sarebbe stata dell'acutezza non priva di ironia, a ben vedere, nel posare una cassa da morto piena di Cuccia nel dominio del noto presentatore. È eletto riferiti entrambi ad emblemi tetragoni del razionalismo immarcescibile. Uno ad uso a far domande di cui gli sfugge il senso, l'altro ad uso a non rispondere affinché il senso non gli sfugga. Quando la cronaca giunge a lambire l'ineffabile, tuttavia, accade qualcosa. Giusto per mettere le cose che non ci tornano al loro posto e riconcederci un minimo di requie. Il Corriere della Sera dà la notizia dell'inquietante ipotesi relativa alla salma di cuccia parcheggiata nei giardini di Mike Bongiorno, dà la notizia, ma a fianco, com'è come non è, ci stampa anche la sua bella pubblicità, sì, ma è quella di Mike Bongiorno neopalliativo del Duca degli Abruzzi, quella di Mike Bongiorno finito al Polo Nord per testimoniare della bontà delle nuove pillole antiossidanti. E c'è anche la fotografia. Mike fra i cani siberiani, i ghiacci eterni sullo sfondo, con in mano la scatola del suo toccasana. Come dire che i conti tornano, che il gatto non c'è, i topi ballano, è al Polo. Via libera.